Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto. Ciao a tutti, sono Valeria da Catania. E io sono Luca d'Argenta e bentornati a quest'ultima puntata di Radio Picchetto. Bene, iniziamo questa ultima puntata con una canzone, Blu degli FL65. Blu, proprio come la divisa dei nostri amici Gesci che ci stanno ascoltando anche in questo momento. Ciao a tutti. Ci sono state diverse attività in questo campo, quali ti sono piaciute? Beh, una che mi è piaciuta in particolare è stata quella di avventura. Noi abbiamo fatto rafting. No, noi abbiamo fatto rafting, però è stato bellissimo la parte quando ci siamo buttati nel Po, che era freschissimo. Mi aspettavo un'acqua molto più sporca, dato che a Ferrara, vicino a dove vengo io, è sempre molto sporca l'acqua perché è inquinata dai vari scarichi delle industrie. Ma invece un'attività che a te è piaciuta particolarmente? Un'attività che mi è piaciuta particolarmente è stata anche quella di nautica, che abbiamo fatto kayak. È stato molto interessante, soprattutto anche quando il mio capo pattuglia si è ribaltato dalla canoa e il capo di Bologna ha iniziato a fargli un video, e adesso abbiamo tutti quel video ed è bellissimo. Capo pattuglia della tua pattuglia, sei famoso adesso. Ciao Leonardo. Beh, ma riguardante le amicizie, tu hai conosciuto nuove persone? Sì, ho conosciuto molte nuove persone, soprattutto anche al Technicamp, in cui anche la collaborazione tra le persone era molto fondamentale per le legature, i nodi, tutto il resto. E poi ho stretto molte nuove amicizie anche nel nostro sottocampo, dato che noi siamo l'unico reparto gemellato con gli UK. Parlare con loro, conoscerli è stato molto interessante. Beh sì, riguardante al Technicamp abbiamo anche fatto molte amicizie, anche con persone di altri sottocampi che senza quell'attività non avremmo mai conosciute. Esattamente, come anche in tutte le altre attività come Spirituality, Hike, tutte le altre attività che insomma abbiamo fatto. E riguardo stamattina, io ho trovato il modo di utilizzare nuovamente le scarpette da scoglio, perché c'era praticamente due dita d'acqua in tenda. Beh, da noi fortunatamente non c'era acqua, però uscendo fuori l'acqua arrivava alle caviglie e con le ciabatte non si poteva camminare. No, noi siamo sotto consiglio anche del nostro caporeparto, siamo dovuti anche andare nella tenda di un'altra nostra pattuglia perché si stava allagando la nostra, perché aveva la pioggia che arrivava dritta dritta all'entrata e dovevamo insomma scappare, come dire. Beh, io però comunque ho trovato stamattina un modo per conoscere altra gente, essendo che stamattina era impossibile smontare. Ho iniziato a fare amicizia anche se è il penultimo giorno. No, noi invece abbiamo smontato stamattina in modo di avere un po' di tempo libero oggi pomeriggio per riposarci, per finire gli zaini, dato che domani ci aspetterà un viaggio di 7 ore per tornare a casa e giusto anche solo per riposare un po' la testa. Ah, beati voi che avete solo 7 ore di viaggio. Noi che veniamo dal sud ne abbiamo circa 24-25. Un giorno in autobus quindi? No, in treno, fortunatamente. Beh dai, meglio che niente. Sono sempre 24 ore, un giorno. Vabbè, l'importante è tornare a casa e avere il proprio gabinetto. Quello sì, mi manca moltissimo il mio gabinetto, perché questi bagni chimici mi stanno uccidendo ogni volta che ci entro. È qualcosa di irrespirabile quando ci si entra. Beh, credo che tutti gli ascoltatori vogliano il proprio gabinetto. Direi proprio di sì. E adesso lasciamo spazio a Amore Capoeira, una canzone dell'estate 2018. Beh, questo campo nazionale di sicuro di speciale che ci sono tutti i CNJ, o almeno quasi tutti, tranne quelli che purtroppo non sono potuti venire, e che siamo tutti nello stesso campo, che condividiamo ogni momento della giornata tutti insieme. Secondo te invece che cosa ha di speciale questo campo nazionale? Beh, secondo me ha di speciale che comunque essendoci molte persone si incontrano persone che non avremmo mai immaginato di incontrare, e soprattutto si rincontrano persone conosciute ai Technicamp oppure anche ai vari campi. Sì, infatti ci sono molte persone con cui mi saluto spesso che prima di questo campo non conoscevo assolutamente, e infatti ci siamo anche scambiati il contatto di Instagram ad esempio, e alcuni anche il numero di telefono. Beh, ma c'è qualcosa che manca rispetto a un campo normale? Beh, ovviamente manca la tranquillità del campo, che di sicuro non c'è, i momenti mancano anche quelli, però è bello che ci sia sempre qualcosa da fare, sempre qualche attività da svolgere, che si svolgano queste attività lungo il corso di questo campo senza mai, diciamo, una pausa. E di sicuro preferisco questi gabinetti rispetto a quelli dei campi normali, perché i nostri dei campi normali sono dei buchi scavati per terra con una sedia da scuola e una tavoletta per water. Beh, noi solitamente non abbiamo nemmeno le latrine, quindi no, in natura. Però, se devo essere sincera, è molto meglio la natura che questi bagni chimici. Beh, un'altra differenza che trovo rispetto ai campi normali sono i pranzi sonati, per esempio miglio quinoa o riso o il couscous. Non sono la cosa più buona al mondo, ecco. Sulla confezione c'è scritto bontà di natura, cioè io Bontà di per rendere stagione. bontà di stagione, per renderlo mangiabile ci devo mettere il tonno oppure la Simmental, perciò non è un product placement e perciò non so che se sia così buono alla fine. E con mia mamma mi sono già prenotato la prima volta che torno a casa una bella pizza, non la sua però perché non mi piace troppo, la voglio quella del ristorante perché è molto molto più buona. Questa è la storia di Valeria Vetrano che si chiama un'avventura fantastica. Oggi vi racconterò una storia alquanto affascinante. La storia è ambientata nella città di Torino, o più precisamente a Vial Fre, nel nostro tanto atteso campo nazionale. Credo che la nostra storia inizia quando il 3 agosto un esploratore avvistò con il suo cranocchiale un animale ai suoi occhi mai esistito. Raccontava che aveva l'aspetto di un cavallo incrociato ad un rinoceronte. Ricordava quasi un unicorno. Inizialmente eravamo spaventati, non avevamo mai visto niente di simile. Ci chiedevamo cosa ci facessero animali così tanto strani nella nostra zona. Perciò iniziamo ad indagare. Scoprimmo che il posto in cui eravamo era molto misterioso. Trovammo articoli molto strani e fantastici riguardanti il posto in cui ci trovavamo. Dopo aver trovato quegli articoli, eravamo più determinati che mai a scoprire la causa di tutti gli avvenimenti fantastici. Il giorno del like trovammo un lago. A prima vista sembrava normale. Ma era strano. Sul fondo non aveva la solita terra, ma una specie di sabbia luccicante. Sembrava quasi della polvere magica. Così tanto che successivamente scoprimmo che era proprio così. Il luogo in cui ci trovavamo, Vial Fre, era incantato. Con il passare dei giorni ci abituammo sempre di più alla strana situazione. Così, tornati a casa, eravamo veramente entusiasti della nostra avventura al campo nazionale. E adesso abbiamo un ospite speciale per un'intervista. Ti vuoi presentare? Ciao, sono Luca, sono il commissario nazionale di Branca Esploratori e Esploratrici e sono il responsabile del Campo Nazionale 2018. Perfetto, abbiamo qualche domanda per te, Luca. Quanto tempo avete impiegato per organizzare tutto il campo? Allora, l'idea del campo è nata a gennaio 2016. È stata approvata, diciamo, a luglio 2016 e da quel mese sostanzialmente abbiamo iniziato a programmare il campo, quindi tutti gli aspetti logistici prima, e nel frattempo abbiamo iniziato a organizzare i sottocampi e tutti i villaggi delle attività. Beh, ma effettivamente sei soddisfatto di quello che è, di quello che è stato il campo nazionale, di come si è svolto? Io sono molto soddisfatto, però questa domanda in realtà la vorrei rivolgere a voi che avete vissuto i sottocampi e le attività, quindi spero vivamente di sì, perché l'organizzazione, come avete visto, è stata molto complessa e ci abbiamo messo tanti anni per arrivare a fare un campo di 13 giorni. Abbiamo cercato di darvi l'opportunità di fare delle attività molto particolari e non usuali, quindi che sicuramente non tutti avevano già fatto e che comunemente nella vita del reparto voi non potreste fare. Quindi ce l'abbiamo messa tutta e speriamo davvero che vi sia piaciuto. Un'altra domanda è, dopo quello che è stato il campo nazionale, avresti voluto che qualcosa fosse andato diversamente? Allora, sicuramente ci sono tante cose da migliorare. Vi volevo solo dire che questo campo nazionale è il più grande campo che il CNJ abbia mai fatto nella sua storia. Quindi per la prima volta ci siamo cimentati con un campo di queste dimensioni e soprattutto sulla parte logistica ci sono tanti aspetti che per un prossimo campo sicuramente possiamo migliorare e soprattutto tutti gli adulti, ricordatevi, oltre 400, quasi 500 adulti a servizio del campo hanno appreso delle competenze che possono rispendere per la prossima volta. Perfetto, hai parlato di un prossimo campo. Qualche spoiler? Al momento no, perché ci dobbiamo ancora riprendere, però sarebbe bellissimo se il campo nazionale ritornasse prestissimo, magari anche di qualche altra branca. Vedremo. Ok, grazie mille per questa intervista. Grazie a voi. E adesso mettiamo una canzone che si chiama Believer degli Imagine Dragons. Qui da Radio Picchetto è tutto. Grazie per aver seguito quest'ultima puntata. E speriamo di vederci il prima possibile a un altro campo nazionale. Ciao! Ciao!